Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e faccio parte dell'associazione Energicamente. E nella puntata di oggi vorrei iniziare un piccolo ciclo dedicato ai cristalli. Abbiamo già fatto alcune puntate sulla cristalloterapia. Oggi vorrei entrare un pochino più nel dettaglio e anche nelle prossime puntate su alcuni cristalli. Oggi parliamo dell'ametista, un cristallo eccezionale. L'ametista, è una pietra magnetica e affascinante. I nostri antenati, incapaci di comprendere la natura fisica, ne attribuivano la nascita ai processi di solidificazione dell'acqua, come accadeva per il cristallo di rocca. Ritenevano che l'ametista fosse acqua, solidificata con il potere di impedire all'uomo di perdere la lucidità mentale, anche sotto effetto dell'alcol. Ametistos significa appunto colui che non si ubriaca. Nella cristalloterapia trova il proprio impiego tanto a livello spirituale che mentale, ricoprendo un ruolo nel ritrovamento del benessere fisico. Drusa di ametista, ametista grezza burattata, qualsiasi sia la forma del quarzo, potrà esservi di aiuto nell'attuare quei piccoli e grandi cambiamenti di consapevolezza nella nostra vita, che vi porteranno con il tempo a raggiungere un equilibrio superiore. A chi è rivolta l'ametista? Come tutte le altre pietre del sistema cristallino trigonale, anche l'ametista agisce in maniera semplice e diretta. Pertanto troverà una maggiore affinità con voi se prediligete uno stile di vita sobrio e tranquillo, ideale per coloro che non amano eccedere e non fanno il passo più lungo della gamba, così da evitare rischi inutili. Il significato dell'ametista profondo è: se amate fare scelte ponderate e riflettute, se siete consapevoli che ogni cambiamento richiede tempo e dedizione, allora siete capaci di mantenere vivo in voi il dono più grande, quello dell'equilibrio. Può rivelarsi un alleato fondamentale per quelle persone che invece vogliono far proprie le sue qualità. Volete allontanare lo stress e ritrovare la vostra zona comfort, senza però adagiarvi perché imparerete che tutto è mutevole e imparate a gestire le situazioni difficili con mente lucida, allora potete decidere di utilizzare l'ametista nella sua forma grezza, sotto forma di orecchini, collane, anelli o bracciali. La cosa importante è averla vicina. Ametista, la proprietà sul corpo e la mente e lo spirito. In realtà, tutti voi potete beneficiare di stupende proprietà della pietra ametista, nonostante alcuni individui potrebbero sentirsi più affini ad essa e desiderare di averla sempre vicina. Qualcuno di voi potrebbe invece optare per utilizzarla in determinati periodi per ottenere alcuni risultati. Benefici a livello fisico. L'ametista viola, proprio a livello cromatico, è collegata al sesto chakra. Lavora quindi su tutta la sfera del sistema nervoso e non solo a livello psicologico, appunto, ma anche per quanto riguarda patologie come mal di testa ed affaticamento e emicrania. Collegata all'elemento acqua e l'universo femminile in generale, questa pietra vulcanica ci aiuta a regolare i liquidi corporei, i gonfiori, a tenersi le ferite e a rimarginarsi prima. Bere l'elisir di ametista regola il sistema digestivo. Se viene utilizzato per usi esterni, aiuta a prevenire le malattie della pelle. Benefici a livello psico e mentale. Tenere vicino l'ametista permette di affrontare problemi sotto la giusta prospettiva. Guardare attraverso la lente di questo quarzo aiuta a vedere tutto in una dimensione nuova. I problemi insormontabili riprendono le giuste dimensioni e gli eventi non renderanno più schiava la persona, ma saranno alleati per raggiungere gli obiettivi. L'ametista è utile a livello pratico perché aiuta a combattere l'insonnia e allontana i pensieri negativi. Può essere utile costruire uno scacciapensieri con le pietre di ametiste burattate. Nella cristalloterapia l'ametista viene posizionata sul terzo occhio, con lo scopo di aiutare la persona a superare tutti gli schemi mentali divenuti obsoleti e dannosi per la crescita personale. Benefici a livello spirituale. In cristalloterapia l'ametista viene utilizzata proprio per le questioni dello spirito. Trova qui il maggiore impiego. Come abbiamo visto, una pietra con sistema cristallino trigonale è pertanto votata alla semplicità e all'immediatezza. Aiuta a raggiungere la chiarezza mentale, allontanando i bisogni superflui che ingannano il corpo. collegata appunto al sesto chakra, l'ametista promuove l'apertura del terzo occhio, di vedere oltre apparenze e comprendere meglio la natura dei sogni. La pietra che porterà la persona che l'indossa verso l'onestà, allontanandola quanto più possibile da situazioni ambigue che creano solo ulteriori problemi. Ametista nella vita quotidiana, come utilizzarla? Potete decidere di indossare collane ametista o orecchini ametista, oppure tenere una drusa o un geoide in casa. Qualcuno opta per un esemplare burattato da tenere in tasca vicino sotto il cuscino. Vediamo 8 metodi di impiego dell'ametista. Controlli insonnia. Posizionate un piccolo esemplare burattato nella fodera del cuscino. In questo modo non rischiate di perderla e non darà fastidio. Vi aiuterà a trovare il sonno, a liberare la mente da tutte le preoccupazioni che vi impediscono di riposare. Avere sogni chiarificatori. Se quello che cercate è un sogno chiarificatore o premonitore, l'ametista potrebbe fare proprio a vostro caso. Stimola il terzo occhio e vi permette di vedere lontano, oltre le apparenze. Comprenderete meglio la simbologia del mondo onirico. Vedere oltre. Se desiderate affinare il vostro intuito, dovete indossare orecchini d'ametista in modo tale da tenere la pietra il più possibile vicino al terzo occhio. Purificare l'ambiente. Le proprietà purificatrici sono date dalla drusa di ametista. Basta tenere la pietra nell'ambiente che intendete purificare e si occuperà di tutto lei. Per purificare altre pietre o ciondoli, se avete pietre da purificare, il geode di ametista viene in vostro soccorso, purché sia un esemplare piuttosto grande a contenere altre pietre. Tenete i vostri ciondoli o i cristalli al suo interno per almeno 24 ore. Per purificare il corpo, gli elisir di pietre sono il metodo migliore, quello più veloce, ovviamente privo di controindicazioni. Dovete tenere la pietra in acqua per 24 ore prima di berla. Attenzione a non buttare giù anche il cristallo. Per non ubriacarsi, si tratta solo di una leggenda, ma tentare non nuoce. Si dice che l'ametista impedisca a chi beve alcol di ubriacarsi. Per svolgere questo compito, la pietra deve essere immersa nel bicchiere dal quale si sta bevendo, per energizzare mente, corpo e spirito. Preparate, come spiegato prima, un elisir di ametista, ma invece di berlo, svuotate la bottiglia caricata nella vostra vasca da bagno. Aggiungete qualche olio essenziale e rilassateli. Come pulire l'ametista? Per pulire l'ametista dovete immergerla nell'acqua. Essendo un quarzo, può rimanervi per diverso tempo. Potete anche optare per pulirla sotto l'acqua corrente. Evitate qualsiasi altro prodotto per la pulizia comune della casa, su questa e su qualsiasi altra pietra. Per potenziare l'ametista, lasciatela per una notte sotto gli influssi della luna piena o quella crescente. Al contrario, dovrebbe essere tenuta esposta al sole. Discorso che vale per qualsiasi altro quarzo. E per oggi è tutto, ma prima di salutarvi, come sempre, i nostri contatti. Il nostro sito www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono, Francesca 340-2345-340, Franco 329-8989-669, Elisa 339-38-60123. Ricordatevi di mettere anche un mi piace alla nostra pagina. E nell'augurarvi un buon fine settimana, vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa puntata e ringrazio Davide e Giorgio per l'ospitalità.